come, non si sa come, dove, non si sa dove, quando, non si sa quando, succede una pioggia sottile, una pioggia d'amore, silenziosa e febbrile, ti discende nel cuore. Come, non si sa come, dove, non si sa dove, quando, non si sa quando, discende e ti penetra lieve, come lieve rugiada, e ti senti di neve, e ti senti di lava. Soffochi, soffochi, rabbrividisci, scivoli, scivoli e non capisci dove muovi i tuoi passi, dove corre il tuo cuore, ma forse vivi di sogni pazzi. O forse invece questo è